Thank you. siamo quella bella. Corradi, fa questo di Napa. Guardare. Ah, vorrei ricordare che 14 anni fa è morto Bianco Biagi e ci sta bene così. Non pedala più, non pedala più, non pedala più, non pedala più, non pedala più. Sì, ma un po' più di tempo. Quale volete, no? La pop. Bien. Dai, Finlandia! Fate presto! Vabbè, disco vino, ok, di nuovo, è la morte per me. Poi se perde la voce sono cazzi vostri. Boom.